the violins of Valerius East. Behold, Shakti with DMC and Wild Wild Women. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looks sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Their eyes looking like the balls popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, growing. I looked at the mirror, I caught the drama drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty, but this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. Ora è 19:46 secondi, sta per iniziare sulle 87.9 di Radio Onda Rossa una nuova puntata di Likewise. Okay, I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm not sub say yeah. Don't you sub say yeah. Dalla Sonica e Pinklo per un'oretta di musica insieme, dai. Bola kampar Bad Bunny sa Sangathan mein hamari itni shakti hai ki humse ab tumhari fatti hai Tere kyu Munneva Jaane de Chukena Morenyan Meerana Supara Nammada In the cusp of 2022 blossoms a feminine revolution Spreading positivity and light Every day a woman's day Every day a new fight But we play and we play We're doing okay Le Wild Wild Women con MCD, la nostra sigla di quest'anno, la quarta stagione di Likewise. Vi siamo mancate, voi ci siete mancate moltissimo, ci spiace non avervi accompagnato in questi scorsi due martedì, ma la vita è molto complicata alle volte, ma eccoci di nuovo qua con una super super super scaletta tutta per voi. Se volete chiamarci 0649 1750, ci trovate in diretta fino alle 20 circa. Non chiamateci quando ci sentite parlare ai microfoni, perché non abbiamo ancora il dono dell'ubiquità, purtroppo. Lo vorremmo tanto, il giorno che ce l'avremo comunque ve lo faremo sapere, quindi chiamateci quando c'è la musica, così vi possiamo rispondere. Allora Pinklo, quindi insomma due settimane di pausa, questa è la 107esima puntata che tardava a venire, insomma ci abbiamo messo un po', ma nel mentre abbiamo sempre continuato ad ascoltare musica che si è, come potete immaginare, anche accumulata. Tanto che Donna sono giorni che mi diceva facciamo una super scaletta, non parliamo, buttiamo, non parliamo. Dischi, buttiamo i dischi così. È vero, alla fine no, non ce la faremo, faremo una scaletta più simile al nostro solito. Ci sono un po' di cose di cui volevo parlare durante insomma questa trasmissione, poi alla fine notizie di queste ultime due settimane, ne parlavamo prima nel, diciamo, nella preparazione fuori onda, questa notiziona che Neil Young ha deciso, ispirato dalla protesta di Robert Smith, leader dei Cure, che ha visto a quanto andavano i biglietti per i suoi concerti, ha detto scusate, c'è qualcosa che non va qua. Stiamo un po' esagerando. Lui, come tantissime artiste di cui parliamo spesso qui a Likewise, diciamo, ha fatto presente che è impossibile andare ai concerti con i prezzi proposti, e Neil Young ha pensato bene di togliere, ha deciso che nel prossimo tour che comincerà non ci saranno più biglietti Platinum, che sono quelli che hai comprato tu, io lo so. Che sarebbero quei biglietti che sì, penso la... 10 persone al mondo si possono permettere. Ma saranno i VIP, persone... quelli dei VIP, degli articoli che vai a bere una cosa con Neil Young nel mentre, sì, sì. Che non mi sembra proprio una grandissima cosa. Quindi Neil Young, se ci stai ascoltando, possiamo fare di più. Possiamo fare molto di più. Molto di più. Per esempio abbassare i biglietti delle platee, della platea, già sarebbe un passo in avanti, che solitamente hanno raggiunto dei prezzi improponibili. Comunque questa cosa è vera. Quindi non solo prima... insomma, gli artisti non riescono più a suonare. In qualche modo a suonare, a mangiare con la loro musica che fanno, perché tra tutti gli streaming eccetera comunque le royalties che hanno sono molto basse, quindi non gli basta vendere i dischi, non gli basta venderli in MP3. quindi hanno, si erano spostati tutti sui live, ma se fanno diventare pure live una cosa insomma impraticabile a cui possono assistere poche persone, o comunque gli appassionati di musica che prima magari in una stagione estiva si potevano vedere 6, 10, anche 12 concerti se ci sono dei prezzi appunto abbordabili, così saranno costretti e costrette a scegliere e vedranno molti meno concerti a discapito quindi di tutto, degli artisti, di noi che ascoltiamo e seguiamo la musica. È una brutta brutta piega che sta prendendo. Anche io ho visto un po' di prezzi molto alti. Sì, siamo sopra i 50 euro ormai per un singolo sempre concerto, e diciamo ovviamente i Cure, Robert Smith non hanno problemi rispetto a questo, ma è importante che artisti e artiste rinomate e famose e che comunque avrebbero la platea piena comincino a battere su questo tema, perché appunto chiaramente hanno più risonanza rispetto ad altri artisti. Parliamone poi anche di questi soldi dei live organizzati, non è che vanno tutti agli artisti, ma che magari suona, esatto, ma magari, ma tutta la baracca che gira intorno, che organizza i concerti, i locali, i posti, eccetera eccetera eccetera. Cominciamo subito questa scaletta con un pezzone. Lei si chiama Masma, Dream World, The Last Poet è il singolo. Inizio abbastanza intenso. Masma Dream World è il nome, il moniker di questa artista. The Last Poet, il singolo che abbiamo scelto per voi. Non lasciatevi ingannare appunto dal dream contenuto nel nome, in realtà non c'è, c'è pochissimo di dream, di dreamy almeno, per questa artista. Lei si chiama incubi. Sì, lei si chiama Deva Mambuka e appunto come dici tu, semmai di incubi possiamo parlare, o comunque Please Come to Me, che è questo secondo album da cui abbiamo tratto il pezzo, uscito per la Valley of Search il 21 febbraio scorso. È un invito a avvicinarvi alla musica di Deva se ne avete il coraggio, no? In realtà sicuramente il suo lavoro sulla, diciamo, sulla musica e sulle produzioni e le sue composizioni è un lavoro molto particolare, insomma, che tocca delle corde profonde, oscure, non necessariamente coincide con qualcosa di brutto, insomma, di spaventoso, no, di tetro, no, ma no. sta a voi, insomma, sono le vostre profondità e sono le vostre oscurità, quindi insomma ognuno ha le sue. A giugno sarà in concerto anche a Roma e in tour comunque in Europa, quindi magari speriamo che i prezzi, come dicevamo prima, non siano proibitivi per andarla a vedere e sentire. Possiamo dire qualcosa di lei, visto che non è mai passata dalle nostre parti. Originaria del Gabon, con un padre ambasciatore e una mamma originaria invece di Singapore, si trasferisce giovanissima nel Bronx, dal Gabon al Bronx, è un bel passaggio. 12 anni, quando era piccola, esatto, però. È una danzatrice di Buto e anche, come dicevamo nel fuori onda, una sound therapist, quindi tutto il lavoro che fa sulle frequenze teta e su appunto la stimolazione dei livelli di coscienza è un lavoro in realtà insomma ben costruito, quindi secondo me il disco va ascoltato con certe piccole attenzioni, probabilmente sì, ascoltatelo di notte in una zona, un posto molto tranquillo, però che state anche con un certo umore di serenità, perché non si sa cosa muove. Comunque lavora sulle onde teta, che sono le onde del cervello, quello che in teoria il cervello produce quando è in fase non REM e REM, quindi sono proprio un stadio molto profondo della mente. Quindi, vabbè, che sono associate alla meditazione, certo, poi, esatto, no? Uno stato molto profondo della mente, quindi è chiaro che lei, capisco che ci possa lavorare, secondo me vengono fuori anche cose molto belle. Io devo dire, l'ho ascoltato e non in cuffia, ma mi riserverò di ascoltarlo in cuffia, sempre in una situazione molto comfort, quindi queste, giusto queste indicazioni, non vi diciamo altro. Ascoltatelo, perché non è che vi mangia, comunque esageriamo, lo potete ascoltare. Il suo album di debutto, che è del 2020, si chiama Play at Night, è stato rieditato con anche un'edizione limitata molto bella in occasione appunto dell'attenzione ricevuta da questo ultimo lavoro che avete ascoltato adesso. Secondo pezzo della scaletta, cambiamo completamente registro, lo sono Panic Shack, Gok One. Everybody to like me. Saying this for dinner, starving yourself. Training entries that are stacked on the shelf. Vertical stripes and skipping meals. Nothing tastes as good as skinny feels. I look good, this is all I do. My body is yours, enjoy the view. I look good, this is all I do. My body is yours, enjoy the view. A day. Fat or pregnant, thin or dying, what would the tabloid say? And I throw up everything I eat, 'cause nothing tastes as good as skinny feels. Panic Shack, Gok One per la Brace Yourself Records, il nuovo singolo uscito lo scorso 4 marzo, della nostra band gallese preferita, Panic Shack, e appunto che a breve uscirà con un album. Ah, allora esce. Perché ho cercato la notizia, hanno telefonato, perché io ho cercato la notizia e non l'ho trovata, perché io pensavo, ma insomma, questi singoli, però ci fanno venire voglia, qua nessun disco, invece uscirà. Bene, buona sapersi. Le avevamo ascoltate nella puntata 35, quindi tipo stiamo parlando forse della prima stagione di Likewise o della seconda appena iniziata. E sai, col pezzo di sotto, col no? pezzo Jiu-Jitsu. Di sotto, mm-hmm. che ci è piaciuto tanto, che abbiamo messo in varie playlist, ci è capitato infatti di far girare un po' parecchio. E restano, diciamo, su tematiche molto importanti, in particolare questo pezzo, Gok One, parla del, diciamo, della generazione nata nei primi anni di questo secolo, diciamo, bombardata da immagini di modelle super magre, questo mito della magrezza che in realtà non è nuovo, c'era anche negli anni 80, eccetera, eccetera, quindi l'abbiamo vissuto anche noi e che continua ad essere, diciamo, il modello predominante. Appunto per tutta la scena, la fashion, diciamo la moda e tutto quello che ci gira intorno, ma non solo, anche tutto quello che le adolescenti e le giovani donne di questo secolo devono subire da quando sono piccole. Quindi parla proprio di questo e di quanto, insomma, alcuni personaggi che sono famosissimi nella televisione, nei canali social, inneggino a questa perfezione. Perfezione fisica. Fisico, sì. Gok One, che è il titolo della canzone, è un personaggio diciamo della moda che io non conoscevo, però manco, insomma. Ah, ecco, ti sto di manco io. No, esattamente, ha presentato. Noi e la moda siamo un po' lontane. Un po' lontane. Che ha presentato anche uno show di grande successo che si chiama How to Look Good Naked, e diciamo che in qualche modo loro hanno utilizzato, insomma, questo nome un po' per rappresentare tutta questa cultura mainstream della simbolo. Fissazione per il proprio corpo, per la perfezione del corpo. Sono le 19:16, noi siamo in diretta sulle 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da Terni in DAB, come da Viterbo, come da Roma in DAB, basta cercare Onda Rossa, spargete la voce. Tutti quelli che ci ascoltano sulla Perugia, anche Perugia, hai ragione, mi sembrava che mi mancasse una città, anche Perugia. Ascoltiamo tutti quelli che ci ascoltano in streaming dal sito dove c'è la diretta, su www.ondarossa.info, dove vi ricordiamo che trovate tutti i podcast di Likewise. Basta cercare Likewise o Likewise-TRX, che è anche il nome del nostro canale Telegram. Aggregatevi, così non vi perdete mai le nostre news. Noi siamo molto pacate, molto morigerate coi post, perché sappiamo tutti di essere abbastanza pieni di post dalla mattina alla sera in 100.000 chat. Terzo pezzo, lei si chiama Maria Somerville Garden. Volevo fare una confessione, che tutti i pezzi di shoegaze e dream pop di questa scaletta li ho scelti io. Maria Somerville, Garden era il pezzo che abbiamo scelto, singolo uscito il 19 febbraio scorso e che è tratto dal futuro album che uscirà fra un pochino, il 25 aprile, niente di meno che per la 4AD, e si chiamerà Last. Allora, intanto è il suo secondo disco. Esatto, intanto ci fa piacere parlare di Maria Somerville per diverse ragioni. Uno, perché musicalmente la sua, diciamo, cultura musicale, le sue influenze musicali sono molto varie, c'è tantissima roba, c'è folk, c'è post-punk, come avete potuto sentire, irlandese. Esatto, cioè, insomma, quindi come avete potuto sentire, cioè anche shoegaze, quindi insomma molte cose che ci piacciono e che si fondono insieme in una produzione molto bella. E poi anche per un'altra ragione, insomma, è collega nostra. È un po' cioè, noi siamo colleghe sue, noi diciamo. Siamo colleghe sue. Lei è più professional di noi, cioè lo fa per lavoro, ovviamente, ma ha un, anzi due programmi. Sì, due programmi su un canale di una radio streaming che si chiama NTS, la potete ascoltare, andare a spulciare sul loro, dal loro sito, che è nts.live. E uno show si chiama The Early Bird Show, che è proprio la mattina, tipo alle 8, lunedì mattina, sai, quegli orari un po' sfigati, diciamolo, che però poi alla fine ti creano, sono quelli una che nicchia. Ti creano gli ascoltatori più fedeli, perché sono quelli che si alzano a quell'ora, nell'ora in cui magari appunto non c'è tanto, accendi la radio, ti fa compagnia, non te crede, sono belli orari quelli. Sta svegli, sì. E tante collaborazioni, tante, diciamo, anche incursioni. No, lavora proprio tanto dentro la radio, sì. Per proporre la sua, ma soprattutto la musica di altre artiste. E tra l'altro nts.live, andatevela a spulciare, perché alcune artiste che abbiamo sentito qui a Likewise sono appunto delle speaker di questa radio, che dà tantissimo spazio a produttrici, musiciste, che comunque poi diciamo esplorano anche questa loro parte di racconto e di condivisione. Quindi insomma un bel ascolto. Sì, se volete insomma approfondire la sua musica, nell'attesa che ad aprile esca il suo secondo album, potete ascoltare il primo, che era stato il suo debutto, che si chiamava All My People, che è uscito nel 2019. Sono le 19:23, via col quarto brano della scaletta di stasera. Loro sono i Deep Sea Driver, no, Diver, senza la R, io non ci vedo più. What Do I Know? Complicated. I Know by Deep Sea Diver dall'album Billboard Heart, uscito per la Sub Pop Records, con cui aveva firmato l'anno scorso, che produce questo lavoretto niente male, molto godibile per le amanti di Sharon Van Etten, Caroline Rose, che tra l'altro ha anche collaborato, insomma è apparsa in uno dei pezzi dell'album. È una produzione tutta firmata, lavorata, registrata da Jessica Dobson, che è voce e chitarrista della band. In particolare per questo pezzo, insomma, lei aveva anche le tastiere. E anche le tastiere, bravissima. In questo pezzo in particolare lei lo aveva registrato nel suo studio a casa, non nella sua stanzetta, nel suo studio a casa, attenzione. Ah. E inizialmente lo aveva concepito come un pezzo demo, ma che poi avrebbe dovuto riregistrare in studio, ma poi hanno deciso di lasciarlo com'è, insomma, un po' perché ispira molto, sì, esatto, tutto il resto dell'album, molto d'impatto, molto, come posso dire, di pancia. Che è comunque una storia travagliata questo disco, perché ho letto sulla presentazione che ne fanno sul Bandcamp che in realtà erano andati a Los Angeles, si trovavano lì, volevano registrare le tracce nuove, ma poi insomma qualcosa in qualche modo non ha funzionato, non era evidentemente il momento giusto, anzi lei addirittura aveva pensato che tutto il materiale che avesse non fosse buono per registrare un disco. Poi in realtà è ritornata a casa, ha rivisto le cose, ha detto no, ma in realtà no, quasi. In realtà funziona, ha trovato qualcun altro collaboratore che gli ha dato insomma qualche aiuto per tirare fuori il disco, e poi alla fine è venuto un bel signor disco molto godibile. Infatti se l'è prodotto lei insieme a Andy D. Park e come dicevo appunto, in realtà i pezzi sono tutti scritti da lei, e ed è anche carino il video che accompagna questo pezzo, in cui c'è questa stanzetta piccola dove entrano queste lei e il batterista e il tastierista, e suonano in modi un po' strani perché appunto volevano un po' riprendere questa spontaneità della registrazione con la quale era nato il pezzo originalmente. Quindi insomma anche questa potrebbe essere un'idea, andatevi a guardare il video. Yes, questo è il loro quarto disco, quindi potete cercare anche le altre cose che hanno fatto. La prima produzione History Speaks è del 2012, quindi in realtà anche una band che è in giro un po' da un po' di anni, anche se non ha tantissime produzioni, quindi ogni produzione è molto lavorata, molto pensata, molto curata, quindi andatevela ad ascoltare. Poi questa gente che suona con altra gente, sì, perché vabbè, sempre certo, per quel discorso che uno poi le bollette le deve pagare, e con i kit dischi che vuoi fare tu spesso non riesci a pagarle, no, lei per certo, esempio insomma suona la chitarra e accompagna tour di gente come Beck, tanto per dirne uno, o i Shins, insomma, quindi si guadagna da vivere, spesso è lontana da casa per tanto tempo perché sta in tour con altra gente. E però quando ha il tempo scrive delle bellissime canzoni e pubblica dei bellissimi dischi. 19:30, corriamo nella nostra scaletta perché dopo di noi ci sono note, cose e città come ogni martedì. Sempre senza la E. Lei è Tasha, Pretend. Some Sasha, Pretend I'm Someone Else, diceva nel pezzo tratto dall'album All This and So Much More, che era uscito a settembre per la Bayonet Records, che noi avevamo perso, nel senso è stato nelle nostre playlist per un sacco di tempo, poi a un certo punto è scomparso, perché ogni tanto lo sai che facciamo quel ripulisti, tipo vabbè sono 3 mesi che non lo mettiamo, forse non lo metteremo più, poi invece lo riascoltiamo, diciamo perché non l'abbiamo messo, dove lo abbiamo perso. Guarda, questo pezzo sarà il tormentone della settimana per me, sai, quando ci sono quei pezzi che toccano delle corde evidentemente il pezzo giusto al momento giusto, esatto, come dico io. E quindi niente, l'abbiamo messo, quindi non si perde niente qui a Likewise, non si butta niente. E comunque Tasha non l'avevamo perso, perché noi l'abbiamo ascoltata all'inizio di Likewise, la puntata numero 12, col disco che era uscito allora nel 2021, che era Tell Me What You Miss Most. Gli piacciono questi titoli così, un po' così, un po' lunghetti. È cantante, cantautrice, poeta, un attivista di Chicago, ve l'avevamo anche raccontato al tempo, quindi sì, ci eravamo persi mo questo disco qua, ma lei no. Dai. Di recente ha anche recitato nella produzione teatrale Illinois, che è un musical basato sull'album di Sufjan Stevens, e quindi ha finito il tour della produzione teatrale e ha appunto poi si è concentrata sull'uscita dell'album e anche sul tour che l'ha accompagnata. Insomma, questo album è molto bello, ci sono molte canzoni, tra l'altro come posso dire, anche per questo artista si può dire c'è molto R&B, c'è molto folk, c'è anche jazz, quindi insomma delle belle sonorità che si fondono e che chiaramente creano anche una varietà rispetto ad altri album invece più lineari, più netti. Sicuramente più lineare e più netto è il prossimo pezzo, che io devo fare una dedica, la dedico a Virginia, con la quale in realtà io che poi tra l'altro è mia sorella, con la quale io ho questa, diciamo, usanza di farci dei balletti, di ballare, la chiamiamo la musica funky, la musica dance di un certo tipo, la disco, e quindi ogni tanto ci balliamo dei pezzi con grande amore, e quindi questo glielo dedico. Loro sono, lei anzi, è Ora The Molecule, Nobody Cares. They only love you when you're dead. They only love you when you're dead. They only care when you're dead. They only see you when you're dead. Nobody cares. You brought your caramels. Nobody cares. You dared to dance. Nobody cares. You lost your big romance. Nobody cares. Hello? Oh, you feeling weird? Well, guess what? You when you're dead, they only love you when you're dead. cares. You think you want to change, nobody cares. You wonder where to go, nobody cares. Today you're feeling low, nobody cares. Around the Molecule, Nobody Cares è il titolo del singolo di questo album che si chiama, che potrebbe essere tipo Fly Down che non a caso si intitola Dance Therapy, è uscito per la Mute Records lo scorso 21 marzo, quindi insomma freschissimo. È il suo secondo album ed è appunto l'album di questa scrittrice, compositrice, musicista Nora Schilderup, scusassero le norvegesi in ascolto ma non so come si pronuncia. Allora, sicuramente è molto magari vi siete persi il testo, ma il testo è molto divertente perché con questa disco allegra, leggera, apparentemente leggera, in realtà fondamentalmente il testo dice: stai male, non gliene frega niente a nessuno, se ne fregano solo se sei morto, e tutta una serie di altre, diciamo, no, che ti senti figo, non interessa a nessuno. Vuoi fare, non interessa a nessuno. Hai deciso di cambiare vita? Non interessa a nessuno. Quindi, insomma, fondamentalmente la. Secondo me è fondamentalmente contro l'influencer e contro tutti quelli che nei social continuano a dirti: ah, come devi vivere, B, che cosa fanno loro per vivere, che a noi, francamente, come devi mangiare, come devi vestire, come devi parlare. Nobody cares. Esatto. Musica ispirata, appunto, esplorata da quella profondità della terra norvegese. Ispirata a, come avete sentito, sono i anni 70, disco, italo disco, insomma tutto quello che un po' retro c'è di questa musica, che lei riprende, rielabora, e secondo me con un grande effetto. Ascoltatevi l'album perché è molto divertente, molto bello, e i temi in realtà sono anche abbastanza intensi, non sono leggeri come apparentemente sembra dire la musica. No, esatto. Poi probabilmente molto di questa pulizia del suono deriva anche dal fatto che lei è DJ, o comunque ha lavorato a fare la DJ. Io vorrei andare a trovarla nel suo studio, perché dice che ha lo studio in una baita isolata fuori Oslo. Io me lo immagino sto studio buttato nel verde più totale, e lei con le cuffie che mentre registra balla le canzoni che sta incidendo. A tale cosa mi fa venire in mente una intervista che ho visto di lei, una video intervista per NPR uscita durante il periodo COVID, quando le interviste e i live venivano fatti ognuno da dove si trovava, e lei praticamente appare in questo video dentro una specie di cabina con tutti i pannelli. No, però non era la sua, l'aveva affittata, cioè una cabina che affittava durante il COVID per andarsi a chiudere lì e registrare cose, chiaramente. Ma secondo me è la periodo stessa baita, perché poi comunque dice che ha registrato lì, l'ha realizzato lì. Sono arrivati note cose città senza E che trasmettono alle 20:15, quindi dopo, cioè, di sono noi sono persi la E, dici, per strada. No, noi la aggiungiamo sempre, loro non l'hanno mai messa. Postcards, Dust Bunnies. Smell of burnt debris. Postcards, Dust Bunnies era il singolo tratto dall'album che uscirà per la Ruptured, etichetta libanese, e la tedesca Tedrai Records, che si intitola Ripe. Devo dire che, come il nostro solito, passiamo da un genere all'altro, e anche in questo caso c'è anche un cambio abbastanza importante. Il trio libanese in questo album cambia un po' le sue sonorità, anche la struttura dei pezzi, e la maggior parte, diciamo, e questo album un po' viene fuori da un'esperienza, a parte l'esperienza quotidiana di un paese martoriato come può essere il Libano, ma anche dalla loro esperienza personale, visto che l'esplosione, vi ricorderete, l'esplosione di Beirut del 2020 colpì anche, esatto, al porto, colpì, che uccise più di 200 persone, colpì anche la cantante Sabra e il suo compagno, che fu gravemente ferito da quell'esplosione. E quindi, insomma, per esempio Dust Bunnies, che è il pezzo che avete ascoltato, comincia con questo testo: cumuli di polvere dietro le porte delle camere da letto, crateri lasciati da meteore, finestre ricostruite ancora una volta e che si richiudono malamente, segnalibri di romanzi incompiuti, generazioni giudicate immorali, l'odore sottile dei detriti bruciati misto a polvere e terra. E quindi questo è un po' anche, diciamo, la rabbia, la tristezza, e tutta la parte, diciamo, emotiva che viene fuori dall'esperienza vissuta, e dall'esperienza vissuta quotidianamente in questo paese, che pervade tutto l'album. Sì, pervade tutto l'album, anche se loro dicono di non volersi arrendere, insomma, e farsi consumare dall'oscurità. Quindi è un disco di rabbia, di dolore, di incertezza, ma anche un disco di sfida, e sappiamo bene quale tipo di resistenza c'è in Palestina, in Libano e in quelle zone anche negli ultimi giorni. Vi ricordiamo che, sempre per restare aggiornati su quello che succede in Palestina, anche per capire quello che sta succedendo, potete ascoltare la radio, i redazionali della radio, andarvi a cercare i vari redazionali, andarvi a cercare le notizie, anche le rassegne stampa. A proposito di Palestina, volevo aggiungere che oggi leggevo su un social di Adrienne Lenker, voi ve la ricordate, la cantautrice che abbiamo anche ascoltato qui a Likewise, e di cui presentammo esattamente un anno fa questo progetto che si chiama I Won't Let Go of Your Hand, che aveva messo in vendita su Bandcamp per raccogliere dei fondi per il Palestinian Children's Relief Fund, che ha raccolto in realtà $125,000, che sono appunto andati al fondo di soccorso per i bambini palestinesi. Il 100% dei proventi, ha spiegato lei, andrà al fondo Aven, che è un istituto della El Janar Jordan Foundation e della Gaza Scholarship Initiative. E il fondo è dedicato all'evacuazione di decine di studenti che rimangono chiusi a Gaza, ospitandoli al Cairo in attesa dei visti e cercando di aiutarli a passare verso nuove università. E sappiamo qual è la strage per quanto riguarda bambini, adolescenti e ragazzi e ragazze in Palestina. Questa iniziativa ha funzionato tanto, lei ha raccolto i soldi per tutto quest'anno, e a un anno, insomma, dal lancio del progetto su Bandcamp, ci ha fatto sapere di aver raccolto, quale cifra ha raccolto ed effettivamente dove stanno per essere indirizzati tutti i soldi. Ci sono diverse iniziative su Bandcamp, se cercate Palestina trovate tantissime iniziative di moltissimi artisti da tutte le parti del mondo che cercano di fare qualcosa di concreto per poter mandare quantomeno dei soldi ad alcune associazioni, ad alcuni progetti che si trovano sul territorio, che sapete com'è, in quale situazione si trova, per cercare di aiutare il più possibile con i mezzi che si hanno le persone a o stare o a uscire da lì, da quelle situazioni. Pezzo successivo, Fan Fugazi, Hide Your Secrets Part 1. the sun to rise, for the sun to rise. I am waiting to find my sleep at night, yeah, my sleep at night. Will I find sleep at night? For a carefree day, I am waiting for a cheapo world. For a cheapo world, could we live in a cheapo world? Until we stand together, let the revolution Fugazi, Hide Your Secrets Part 1, band che arriva dall'Olanda, giovane, insomma sono un paio d'anni che sono in giro. Questo pezzo è tratto dal loro EP di debutto che si intitola Look At You. Insomma, le ispirazioni sono molto chiare, fan Fugazi, insomma. No. Infatti anch'io ho pensato quello, è un omaggio? Quello? Eh sì, insomma, sicuramente sì, immagino che non venga per caso. Non so perché non ho cercato notizie. Ho trovato notizie. Interviste che riguardano questa band, insomma, chiaramente sono in giro da poco e poi l'Olanda è un po' particolare come posto perché parlano molto olandese, quello è il punto, capisci? Scrivono molto in olandese loro. Ci tengono. Ok. Vabbè, giustamente. Likewise chiocciolondarossa.info, se magari voi ne sapete di più, scriveteci. Ogni tanto leggiamo le mail, dona più di me, quindi ogni tanto. 19:58, siamo quindi a cavallo del passaggio proprio che incombe di note, cose, città, che verrà in ritardo, dopo di noi, come al solito, e con tre pezzi che riescano fuori dalla scaletta, ma che non perderete perché ve li faremo ascoltare la settimana prossima. Ma ci piaceva chiudere con questo pezzo. Anna Ferrer, Magrada se Spigolar. M'agrada se espigolar i anar replegant espigues per te pa, per mangiam un plat de figues. M'agrada s'espila i anar replegant espigues per tenir un tros de pa. Anna Ferrer, Magrada se spigolare, che è il pezzo che chiude questo album bellissimo che si intitola Pare Gnostic. Vi consiglio proprio di immergervi in questo ascolto, uscito per una etichetta che si chiama La Castagna alla fine dell'anno scorso. Anna Ferrer è una cantante, cantautrice, studiosa originaria di Minorca, una isola delle Baleari, nota per il suo impegno, la ricerca per la preservazione delle tradizioni folcloristiche e linguistiche della sua terra e culturali della sua terra. Questo pezzo in particolare, diciamo che è un pezzo, appunto, un canto dei campi, e consiste in una singola strofa ripetuta che dice: amo andare a spigolare e raccogliere il grano per avere un pezzo di pane da mangiare con un piatto di fichi. È un, diciamo, appunto, una strofa cantata da una celebre cantante di Minorca che si chiama Pilar Pons, a cui poi la Ferrer mano a mano aggiunge armonie con la sua con il suo multitraccia ad ogni ripetizione della strofa. Direi che non ci poteva essere chiusura più bella per questa puntata di Likewise, la numero 107. Sono le 20:04. Noi vi lasciamo in buona compagnia come ogni martedì di Note Cose Città. Poi a seguire c'è Semilla, Musiche dal Mondo, e poi c'è More Fire con il reggae. Quindi restate all'ascolto di Radio Onda Rossa, seguitela. Mi raccomando, fate anche qualche piccola donazione che ci aiuta a pagare i ripetitori, le bollette e quant'altro. Lo sapete che non abbiamo pubblicità, non abbiamo padroni, non abbiamo finanziatori. I nostri finanziatori siete voi, quindi dateci una mano che ne abbiamo bisogno. Vi lasciamo, ci sentiamo Giurio, Giurin, Giuretto la settimana prossima, martedì saremo di nuovo qua. Ciao!